get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buongiorno, bentornate! E tocca a me, Deborah, e a Laura darvi un caloroso bentornate, in senso stretto ovviamente, vista l'afa di questi giorni. Oppure benvenute, se questa è la prima volta che il martedì alle 19.15 vi sintonizzate su Radio Onda Rossa. Ebbene, se per voi è una novità, per noi non lo è, visto che questa è la 19esima trasmissione di un ciclo iniziato nel dicembre del 1997. Com'è stato il ritorno dalle vacanze? Ma sì, chiamiamole vacanze, come si fa a scuola, anche perché sarò pure infantile, ma per me l'anno inizia sempre a settembre e non a gennaio. E quindi a settembre che faccio, ahimè, un po' di bilanci, con quelli economici sempre in rosso, e un po' tutte quelle cose alquanto retoriche, come crearmi delle aspettative, quasi sempre disattese, farmi dei buoni propositi, e su questo no comment, e aspettare gli appuntamenti di rito che una buona lesbica non può che aspettarsi. Dunque, parlavamo di bilanci. Questo 98, un po' fiacco, vero? Beh, almeno fino a questo momento. Cominciato in maniera un po' turbolenta, ancora sotto l'effetto di un convegno lesbico a Roma che ha lasciato molti strascichi e molti sospesi, è andato avanti un po' sbilenco nel diffuso tentativo di riorganizzarsi, di organizzare la riorganizzazione, di disorganizzare quanto già organizzato. Insomma, uno scioglilingo di lesbiche, viaggianti, da un'estremità all'altra dell'Italia. È passata immaginaria nel freddo bolognese di febbraio e nel caldo sempre bolognese la terza settimana lesbica, il tutto inframmezzato dalle riunioni del forum delle lesbiche e da quelle dei gruppi separatisti. Un po' pochino, vero, per dirsi movimento? Eh sì, davvero pochino, ma passando ai buoni propositi, anzi alle speranze, è poco perché siamo poche. Intendiamoci, non sono le lesbiche ad essere poche, lo sono quelle che, forse non sempre nel modo migliore, si danno da fare per farsi sentire dal mondo e soprattutto dalle altre lesbiche. Come noi del coordinamento lesbiche romane, che parliamo e straparliamo, giochiamo e riflettiamo in queste trasmissioni. Perché? Ma perché essere lesbiche in due non ci basta. Essere lesbiche in un mondo così è talmente doloroso. E allora parliamone, ragazze, fatevi sentire. Parlarne da sole è pazzia, parlarne in due è monotono, parlarne in 10 o in 100 è solo questione di tempo prima di urlare. E parlando, gli anni passano e tutto resta esattamente com'è. E allora? Noi siamo qui, voi dove siete? Nonostante gli sforzi, proprio non vi sentiamo. Just picked a little empty pie for care about the different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing home. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my Twist of my sobriety. Bella, vero? Era la voce di Tanita Tikaram in Twist of my sobriety. Dunque, nulla a che fare con la mia, chiaramente. Diamo un'occhiata oltreoceano. Siamo state entusiaste nell'apprendere che, tra tanto indifferenziato queer statunitense, a Washington esiste un'originalissima iniziativa squisitamente lesbica, il Comitato Nazionale di Azione Politica Lesbica. Come spiega la fondatrice e direttrice Mindy Daniels nel sito internet dell'organizzazione, a proposito, queste informazioni le abbiamo trovate tramite i preziosi link di www.lesbian.org. Dunque, come spiega Mindy, il comitato è nato nel 96 per dare incisività alla visibilità lesbica nella politica nazionale statunitense. Unico nella sua specificità esclusivamente lesbica, il comitato finanzia economicamente quei candidati e quelle candidate al congresso o al collegio presidenziale che si impegnano ad operare sulle questioni lesbiche. Con stile puramente utilitaristico e quindi estremamente pratico, il comitato non distingue tra candidati uomini e donne, gay o eterosessuali, repubblicani, democratici o indipendenti. Per l'assegnazione dei fondi si basa esclusivamente su chi esprime chiare posizioni in merito alla non discriminazione sul posto di lavoro, ai diritti sull'aborto, ai problemi sull'adozione o sull'affidamento a coppie lesbiche, alle questioni di salute pubblica, eccetera. Vero è che tra i 10 candidati sovvenzionati alla Camera ci sono ben 6 donne e tutti e tutte sono del Partito Democratico. Comunque, per dare identità e visibilità lesbica ai fondi elargiti, Mindy tiene a sottolineare che l'assegno inviato ai candidati e alle candidate è esplicitamente firmato Comitato Nazionale di Azione Politica Lesbica. Composto esclusivamente da volontarie, i soldi da destinare alle sovvenzioni sono raccolti tramite diverse iniziative e tramite il diretto contributo di lesbiche generose e certe che i soldi elargiti aiutano tutte le lesbiche, comprese se stesse. La missione del comitato, oltre a quella primaria di unire le lesbiche in un soggetto identificabile politicamente e con una diretta influenza su quanto accade in America, si può riassumere in alcuni concetti chiave. Fornire un continuo forum di discussione di donne per lavorare a livello politico sulle questioni lesbiche. Aiutare le lesbiche a dare identità e forza alla loro priorità. Dare visibilità nazionale alle questioni lesbiche, unire le energie delle attiviste, educare i leader politici, ispirare un nuovo concetto di leadership, influenzare i processi della politica ufficiale. Ed in tutto questo il comitato riceve supporto non solo dalle principali organizzazioni gay e lesbiche americane, ma anche dall'Organizzazione Nazionale delle Donne e dalla campagna sui diritti umani, che riconosce continuamente la competenza e il coraggio di queste donne lesbiche. È proprio un altro mondo l'America. Gli appuntamenti. Più che appuntamenti, oggi, con il sottofondo di Meshel Negeo Sillo, Dio che cognome, in The Womb, abbiamo notizie. Le ferie sono ferie per tutte, ricordate l'introduzione? Ci stiamo riorganizzando, organizzando la riorganizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Dal 27 al 31 luglio si è svolta a Copenaghen, in una casa per sole donne, la conferenza internazionale lesbica dedicata, e sono proprio le loro parole, alle lesbiche radicali, alle separatiste organizzate e a coloro che vogliono esserlo. Il gruppo promotore si chiama PUT, che per loro è l'acronimo di pattuglia purificatrice dell'eterosessualità forzata. Ed è un giovane ma molto attivo gruppo separatista che descrive come suo obiettivo, e citiamo testualmente, il dimostrare come l'eterosessualità sia solo un dovere per attaccarla, senza chiedere dei diritti civili particolari, ma combattendo l'eterosessismo e le altre strutture repressive. Facendo dell'identità lesbica il punto focale della loro analisi e della loro pratica, hanno redatto la comunicazione della conferenza, invitando qualsiasi lesbica separatista che si sentisse radicale e rivoluzionaria a lavorare in maniera antirappresentativa, ovvero combattendo la logica della rappresentanza, avendo come scopi ambiziosi cosucce come la formazione di lobby e di partiti politici. Davvero interessante, vero? Nel dicembre del 1996 è nata su internet N.Paradoxa, ovvero un'interessante rivista sull'arte femminista internazionale, che cerca di analizzare i paradossi tra la teoria femminista e le pratiche artistiche delle donne contemporanee. Largo spazio è dedicato alle opere di artiste di tutto il mondo e all'analisi di saggi su femminismo e post-femminismo. La versione su carta ha cominciato ad essere pubblicata nel 1998 e tutte le informazioni potete trovarle sul sito web.ukonline.co.uk/n.paradoxa/index.htm. Siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista autogestito, sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Chiamateci ora qui in radio al 491-750 oppure lasciate un messaggio o inviate un fax al 68-64201. Ogni lunedì dalle 20.30 ci troverete al Centro Femminista Separatista, in via San Francesco di Sales 1A. Noi siamo tornate, e voi dove siete? Il nostro appuntamento sulla musica lesbica indipendente non può che ricordarci l'estate. E dov'è l'estate più estate? Ma in Sud America, ovviamente. E per noi è con la brasiliana Rita Lee in Todas las Mujeres do Mundo. Elas querem é poder. Mas assassinas, filhas de Maria, delícias femininas, nazis judias, piatas gatunas, gangas do fio, esposas drogadas, tadinhas malvadas, toda mulher. Ministras malvadas, linhadas e bebidas, beneditas espiritadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz coitada, toda mulher. Velhas atrizes, patroas babacas, empregadas mandonas, madonas na cama, dianas comiadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher. Decadentes, manecas alceias, enfermeiras doentes, madraças malditas, super-homens sapatas, irmãs laduzes, reais identificadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher meia, meia, meia. Passiamo ad un argomento che sta riempendo le pagine dei giornali dall'inizio di agosto. Sì, volevamo parlare anche noi di prostituzione, anche noi, oltre a tutti i politici, i sindaci di destra o di sinistra, il libero sindacato di polizia, la ministra Turco, eccetera, eccetera, eccetera. Eccola la crociata dell'estate, non potendo punire la prostituzione che nel nostro codice penale non esiste come reato, si tentano vie traverse, ricorrendo al codice della strada e ai regolamenti comunali. L'evento scatenante è stato il provvedimento adottato da comuni come Rimini, Padova, Verona, Modena, Montecatini, Firenze e tanti altri. Sanzioni ai clienti che intralciano il traffico, ma anche alle prostitute. Chiaramente questa non è una notizia da titolone. Una multa di 1 milione ridotta a 335.500 se si concilia subito, evitando così anche il recapito a casa di un'infrazione così scandalosa e che potrebbe, per carità, turbare l'ipocrita integrità del nucleo familiare. Lo Stato attua una sorta di sconto ufficiale, l'autorità pubblica punisce, ma perdona la birichinata, lo Stato non fa la spia, si schiera, ma altro che deterrente alla prostituzione, qui si fa solo finta di colpire il cliente, ma poi è con quest'ultimo che si scende a patti. In fondo, come afferma il manifesto, il cliente non ha sempre ragione? Nella giunta romana si è gradualmente formato il partito trasversale delle donne, che in disaccordo con il sindaco Rutelli ritiene che sia necessario colpire la domanda e quindi ben vengano le multe come deterrente, mentre Rifondazione definisce questo provvedimento una misura oscurantista. Il vostro sindaco ha deciso invece di affrontare la questione sotto due profili, uno di ordine pubblico, l'altro di decoro pubblico. Il primo obiettivo sarà liberare la zona Marconi con un'azione concertata con la prefettura. Nei casi di riduzione in schiavitù sarà possibile comminare condanne fino a 20 anni e a chi denuncia gli sfruttatori si concederanno tutte le opportunità della legge turco-napolitano, cioè dell'articolo 18 della legge sull'immigrazione. In questi casi le donne straniere che si ribellano al racket o che scelgono soltanto di cambiare vita potranno avere un permesso di soggiorno. Con giudizio, la stessa ministra Turco, in un'intervista, ribadisce che i maschi devono riflettere su loro stessi, perché è facile comprare sesso, imporre un rapporto a rischio per soldi, ma sostenere un legame alla pari con una donna? Gli uomini fuggono di fronte a questa sfida. La chicca, però, più succulenta, riguarda la salvaguardia del decoro pubblico. Si sta allestendo con la ASL di Roma B un consultorio che accerti le condizioni sanitarie delle prostitute. Di fronte a segnalazioni di soggetti e gruppi a rischio, sarà richiesto il trattamento sanitario obbligatorio a difesa della salute pubblica. È una nostra cattiva interpretazione o Rutelli vuole proteggere quei poveri maschietti ignoranti che non sanno a quali rischi vanno incontro chiedendo rapporti a rischio? Neanche una parola su colei che subisce i rapporti a rischio. Nulla da fare, la tutela riguarda la domanda. Un po' come in Germania, notoriamente paese di notevoli tradizioni democratiche, dove le prostitute sono obbligate a visite mediche settimanali e quindi ad una schedatura forzata. Il quotidiano La Repubblica ci presenta in Italia un pianeta lucciole molto variegato. 25.000 lucciole straniere, di cui 5.000 solo nel Lazio. Il 59% del totale arriva dalla Nigeria e il resto dall'Albania, dall'ex Jugoslavia, dal Sud America e dal Nord Africa. Il 94,2% sono donne e il resto transessuali e travestiti. Il 12% del totale è sieropositivo ed addirittura il 43% non usa il preservativo su richiesta del cliente. Vogliamo parlare un po' dell'età di questo esercito? La maggior parte delle ragazze ha un'età compresa tra i 14 e i 19 anni. Il resto ha un'età tra i 20 e i 35 anni. Le ragazze dell'est hanno prevalentemente una scolarità medio-alta e il volume d'affari annuo di questo mercato è stimato sui 30.000 miliardi di lire. Il gruppo più numeroso, anche d'estate, quando la stragrande maggioranza delle professioniste si trasferisce sulla riviera Adriatica o in altre località balneari, è quello delle albanesi, vere e proprie schiave asservite da una malavita vorace e spietata. La punizione minima per chi sgarra è una coltellata alla testa sul cuoio capelluto. Le ragazze vengono stipate in piccoli appartamenti d'affitto sul litorale e sulla Nomentana e ogni giorno gli sfruttatori le portano spesso a decine di chilometri di distanza. Tiburtina, Prenestina, Viale Marconi, Appia, Pontina. Agli albanesi si affianca il piccolo esercito di slave, russe, rumene, macedoni, profughe dell'ex Jugoslavia. All'estrema periferia le ragazze africane, soprattutto nigeriane, che si accaparrano una larga fetta del mercato da strada grazie ai corpi statuari, alle tariffe stracciate e alla disponibilità a rapporti non protetti. E poi i tanti episodi riportati dai giornali sulla violenza e sullo squallore della costrizione di ragazzine alla prostituzione. Di Gemano, Roma, Guidonia, Napoli. Raccontarne alcuni sarebbe dimenticarne altri, tanti altri. In questo scenario apocalittico, le multine di 300.000 lire ci sembrano un deterrente davvero incisivo. Tutto molto doloroso, ma forse per qualcuno fin troppo proficuo. Pensiamo ad esempio all'amministratore della società Klaus Davy, che ha chiesto a vari comuni italiani l'autorizzazione a installare stand promozionali nelle zone a luci rosse per pubblicizzare cerette e, in generale, prodotti cosmetici per la pelle. omosessuali, trans e, per analogia, anche le lucciole, tra l'altro ringraziamo i redattori di Repubblica per l'analogia, lavorano prevalentemente di notte e quindi sono raramente raggiungibili dalla pubblicità televisiva. Che peccato! Così, dopo le pagine gialle del sesso e dell'amore, è nato lo spot da marciapiede. Lo sviluppo capitalistico presenta nuovi sbocchi in un mercato in apparenza tutto da condannare. In fondo sono solo donnacce, ma nel contempo da alimentare se i maschi hanno così tanto da guadagnare. Come sempre le proposte migliori, seppure purtroppo non organiche, vengono dal volontariato. A Castelvolturno, sulla statale Domiziana, opera l'associazione Jerry Maslow, che offre cure e visite mediche a tutti gli immigrati ed è anche un centro di osservazione epidemiologica. La USL di Rimini, nell'ambito di un più ampio progetto della regione Emilia-Romagna sulla prostituzione, dal 1996 ha promosso il progetto HELP per l'accoglienza alle prostitute e che in prospettiva si prefigge di attivare alcune unità di strada per essere direttamente presente sul territorio e per contattare in maniera più immediata e capillare le donne che hanno bisogno di assistenza medica. Altro obiettivo riguarda l'attuazione di progetti individualizzati di alfabetizzazione, ovvero di corsi di formazione professionale che garantiscano in tempi ragionevolmente brevi una possibilità di autonomia per le donne che beneficiano dell'assistenza. La maggior parte delle donne che usufruiscono di questo servizio provengono dai paesi dell'est e dall'Albania. Tra loro ci sono moltissime minorenni e sono tutti albanesi. Gran parte di loro sono collaboratrici di giustizia ed è importante sottolineare che sia a Castelvolturno che a Rimini a nessuna vengono chiesti i documenti o le generalità. Ma c'è anche l'appello dei poliziotti dell'ISIPO, il libero sindacato di polizia. È tempo di riaprire le case chiuse, visto che la situazione delle donne che si prostituiscono non è migliorata dopo l'applicazione della legge Merlin e visto che i racket si sono appropriati dei marciapiedi. Le donne sono ridotte a carne in vendita senza regole. Per queste donne le case chiuse sarebbero la liberazione. Queste affermazioni hanno bisogno di qualche commento? E poi è cosa nota che tutto ciò che viene gestito direttamente dallo Stato è sottratto automaticamente al controllo della criminalità organizzata. Ne è prova concreta il mercato ancora florido del contrabbando di sigarette. Ma vediamo cosa accade negli altri paesi. Le leggi della prostituzione dei paesi europei, esclusi quelli dell'est, nei quali finché c'è stato il comunismo la prostituzione era proibita, sono leggi post-abolizioniste. Tutte hanno un punto in comune. La prostituzione è vista come una coercizione, come la conseguenza di un atto di prevaricazione. La cosa strana però è che questo reato non è poi punito in quanto tale, altrimenti logica vorrebbe che la legge penale sulla prostituzione dovrebbe essere indirizzata a punire i clienti. A parte multe, bonari e partacce, in Italia lo scandalo della prostituzione restano le prostitute e non i loro benemeriti clienti. Ben altra analisi è quella di Adrian Rich nel saggio Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica. Alcune studiose americane hanno affermato che i consigli dati alle donne dagli operatori sanitari maschi, soprattutto per quanto riguarda l'esercizio del sesso nel matrimonio, la maternità e l'allevamento dei figli, erano e sono in sintonia con gli imperativi del contesto economico e con il ruolo produttivo e o riproduttivo delle donne, necessario alle esigenze del capitalismo. Nel suo saggio L'origine della famiglia, Kathleen Boog elenca alcune delle caratteristiche del potere maschile, che sfruttano il lavoro femminile per controllarne i prodotti, che le utilizza come oggetti di transazioni maschili, che cerca di confinarle fisicamente e cerca di impedire loro l'accesso ad ampie aree del sapere sociale e delle acquisizioni culturali, che impone loro la sessualità maschile attraverso un'educazione che spinge a considerare la spinta sessuale maschile come un diritto, attraverso lo stupro, la prostituzione, l'harem, e spinge a comandare o sfruttare il loro lavoro al fine di controllarne i prodotti attraverso il lenocinio, di essere usate come oggetto di transazione maschile. Si pensi all'uso delle donne come doni, il prezzo della sposa, il lenocinio, l'impiego di donne come intrattenitrici, le donne, segretarie, cameriere, ben agghindate per il titillamento sessuale maschile, le ragazze squillo, le conigliette, le geshe, le prostitute, insomma, il sesso come mezzo di accesso al corpo femminile. Da varie parti in Italia, e lo fa la stessa Livia Turco, si propone la formazione di cooperative di lucciole. Ma cosa c'è dietro questa idea? che la donna riesca finalmente ad essere imprenditrice di se stessa e di altre donne? O non si tratta forse di un escamotage per lasciare immutate le regole e dare il via a una sorta di legalizzazione della prostituzione? Il risultato non sarebbe altro che la creazione di un contraltare alle case chiuse, dove le donne potevano anche essere sottoposte sistematicamente a controlli medici, ma ci si è mai chiesti per quale motivo? Per salvaguardare la salute delle donne o per tutelare ancora una volta la salute, uno stato di benessere e di privacy dell'uomo? Ma diciamolo francamente, si vuole tornare ai tempi in cui andare a puttane non era rischioso più di tanto, in quanto lo Stato, tutore a tutti gli effetti del cliente, tendeva e tende a fornirgli un prodotto, un servizio di qualità, che non destabilizzi il suo precario ed eventuale equilibrio con un'altra categoria di donne, quella da sfruttare per la costruzione e l'allevamento di un nucleo familiare. E la Tattafiore, nel suo libro Sesso al lavoro, ci ricorda che nei bordelli di Stato la situazione non era migliore di quella sui marciapiedi. Le prestazioni erano stabilite dai tenutari, i guadagni delle prostitute se ne andavano quasi tutti per pagare loro vitto, alloggio e le spese per servizi come biancheria e medicinali. La maggior parte delle prostitute si ammalavano, anche se erano sottoposte a visite sanitarie o a cure coatte, invecchiavano precocemente e quando uscivano da una casa finivano in ospedale o in ospizio, da galera a galera. E non ha importanza se i dati forniti da più fonti rivelano che l'85% delle prostitute sono ridotte in stato di schiavitù. Lo Stato non fa altro che alzare le braccia di fronte a quello che gli conviene continuare a definire il mestiere più antico del mondo. Tra l'altro, che ne è stato della caccia? Poco importa se tanti minorenni e non vi sono costrette con la forza o per la fame. Cos'è questa cattiva abitudine di voler risolvere i problemi alla radice? L'importante è che la domanda, e si sa che in un sistema capitalistico questo rappresenta un fattore importante, venga costantemente soddisfatta. L'alternativa è lunga e complessa sicuramente e deve necessariamente formarsi su più fronti, primo fra tutti quello culturale. Certo, è molto più semplice legalizzare la sopraffazione di una parte su un'altra, oppure pensarla come quel maschio di Ancona multato perché andava a prostitute. Qui le puttane non si vedono perché siamo una città rispettabile. I nostri complimenti per tanta onorevolezza. Woman, this is your life. Mama, live your life. You've got nothing to hide. Woman, and you decide your way. Day, she Le Kick la Luna con questo Funky Woman incitano una donna alla ribellione e a riprendersi la sua vita. E questo brano non l'abbiamo scelto a caso. Navigando un po' in internet e nel nostro sito preferito www.lesbian.org si trova davvero di tutto, anche se c'è sempre troppa America in giro. Appunto in California esiste il progetto Saffo, ovvero un gruppo no profit di artiste che ha ideato un'installazione artistica sulla vita, il lavoro e l'epoca storica della straordinaria genia creativa, vissuta nel VII secolo avanti Cristo. In collaborazione con il direttore di alcuni scavi archeologici a Lesbo, l'installazione comprende una ricostruzione del Tempio di Afrodite, alcune statue, un giardino di piante lesbiche, o volevo dire di piante provenienti da Lesbo, alcuni ritratti di Saffo e la presenza di un'area spettacoli in cui vengono recitate in diverse lingue le stupende poesie dell'artista. Saffo era molto acclamata ai suoi tempi ed era amata per la sua genialità nel comporre le poesie e le musiche che le accompagnavano, secondo l'usanza greca. Era così brava che aveva la reputazione di essere la divina ispiratrice delle muse, ma tutto ciò è stato cancellato e distorto da 2000 anni di patriarcato. Il progetto Saffo ha lo scopo di darle giustizia e di evitare il rischio che una tale artista venga ricordata solo per i miti che il suo nome evoca. E nel salutarvi, dandovi appuntamento a martedì prossimo alla stessa ora, anche noi nel nostro piccolo vogliamo darle giustizia, leggendo con voi una delle sue toccanti poesie. Essere morta. Essere morta, morta. Lei lacrimava fitto lasciandomi. Disse: «Che sorte crudele, Saffo! Credi, non vorrei lasciarti!» Io le risposi: «Addio, va serena e ricordati di me. Tu sai che t'ho voluto bene. Oppure sarò io a ricordare. Tu dimentichi. Pensa alla nostra storia, così dolce. Quante corone di viole e di rose e di salvia ti ponevi sul capo. Eri là, vicino a me. Che intrecci di ghirlande al collo delicato. Erano fatte dei fiori della primavera. Tutte le carni d'una essenza d'erbe tungevi, che fluiva, ed un olio regale. Sfogavi sopra morbidi letti desideri di tenere compagne. Non c'era ballo, non c'era festa da cui fossimo assenti, e non c'erano boschi a primavera». Bene ragazze, vi lasciamo in compagnia di Katie Lang e vi diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre martedì alle 19.15 sugli 87.900 di Radio Onda Rossa, ospiti delle nostre amiche del martedì femminista autogestito. Ricordate che il coordinamento Lesbiche Romane vi propone il ciclo di trasmissioni È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, che prevede ogni 15 giorni una trasmissione nuova che va in onda in replica la settimana successiva. Allora, bentornate ancora dalle vacanze, ciao a tutte!